piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Oggi voglio raccontarvi una storia. Anzi, farò raccontare una storia. Oggi una nostra ascoltatrice, che ci ha cercato per raccontare questa storia, Laura, ci racconterà come ha vissuto nella sua famiglia il Covid-19. Nulla di particolarmente originale rispetto a quello che è il vissuto di tante famiglie che hanno trascorso questi ultimi mesi nelle zone d'Italia dove la gente moriva, palesemente moriva, si vedeva morire. La maggior parte delle persone ha avuto parenti, amici, conoscenti o persone nell'ambito del loro orizzonte visivo che comunque sono morte. Non lo faccio per dare ancora una volta adito all'accusa di essere disfattista. Lo faccio solo perché a tutte le latitudini del nostro paese si intenda bene e si ricordi bene e si abbia una testimonianza diretta di quello che ha rappresentato questo momento e quello che è stata veramente una pandemia nei suoi aspetti più funesti. Lo faccio perché non servano argomenti persuasivi particolarmente raffinati per far capire alle persone che probabilmente ancora avere qualche cautela e mantenere ancora dei livelli di sicurezza almeno nei limiti di quelli che sono comunemente indicati non significa essere cretini, non significa essere paurosi, non significa essere allarmisti, non significa farsi dei problemi che in realtà è superfluo farsi. E soprattutto non significa che c'è qualcuno cattivo che da qualche parte vuole per forza imporci dei comportamenti limitativi della nostra libertà d'espressione, della nostra gioia, della nostra volontà comunque di festeggiare il ritorno alla vita quasi normale, ma esista ancora presente e reale un pericolo che non ha nulla di piacevole e nulla che meriti di essere sottovalutato. Intanto volevo dire che è una cosa importante, che mio padre, nonostante la sua età, è sempre stato una persona che non sembrava uno di 89 anni. Cioè lui fa una vita dove esce, sta con gli amici, va fuori a cena, non ha difficoltà, cioè non ha quelle... non è un vecchio, ecco, diciamo, non è come li chiamano, i vecchi. Cioè era una persona autosufficiente con una sua vita autonoma, stava in salute, bene o male, a parte ovviamente quelle cose che sapeva, doveva prendere la pastiglia alla pressione, punto e basta, però altre cose no, ha avuto un piccolo tumore che può essere risolto senza neanche chemio e radio. Beh, comunque diciamo, per la sua età faceva una vita discreta, ottima. Cioè usciva, aveva i suoi... è venuta a mancare mia mamma, pensavamo che lui se ne andasse per dolore perché era veramente molto legato a mia madre, invece ha superato anche questo lutto e si è organizzato, ha reagito e quindi si è creato degli interessi, gli amici al bar, quando lui al bar non c'è mai andato, caffè con gli amici, la cena con gli amici, quindi una persona diciamo attiva come un cinquantenne, cioè fa le stesse cose che faccio io con 51 anni. Ecco, ma quando lui ha cominciato ad avere le prime notizie di quello che stava accadendo, si è messo in sicurezza, ha cambiato un po' vita o non è cambiato nulla? Allora, qua a Milano, io ti parlo a Milano, si è iniziato a capire che qualcosa era davvero, stava iniziando a capirsi che insomma la cosa era seria, solo intorno diciamo alla prima settimana di marzo. Più o meno. Infatti io sono stato a Milano, mi ricordo il 2-3 marzo, c'era un clima abbastanza di stranezza perché c'era poca gente in giro. Sì, però nessuno ancora aveva cioè diciamo che durante la prima settimana di marzo si è capito che qualcosa di serio stava accadendo. Sì, però la gente andava in giro, ci stava un po' più attenta. Andava in giro, un po' più attenta, però anch'io, per esempio, non mi sono allarmata, a parte che io non sono una persona che si allarma facilmente. Padre ci ha riso anche sopra dicendo, ma figurati, io mi ricordo quando è arrivata la spagnola, e lui era qua a Milano, la spagnola mi pare che fosse qua nei primi anni 18-19. La spagnola 1900. No, allora mi sto confondendo dopo, l'asiatica, sì. Però mio padre ha detto, ma sì, non è successo niente, noi avevamo anche le mascherine, quindi parlava di questa cosa come una cosa che aveva già visto, ecco, che aveva già un déjà vu per lui, quindi figurati. Sì, una roba che ha detto, ma proprio questa roba qua mi spaventa proprio, poi se peggiorerà poi vedremo, cioè insomma non ha dato peso a questa cosa. Quando una mattina lui si è sentito male, sentiva un'oppressione al petto. Allora, intanto ha avuto un picco di pressione alta, altissimo, e poi un'oppressione al petto. E appunto, essendo una persona che non si spaventa facilmente, lui di conto in bianco mi ha detto portami in pronto soccorso. Cioè, quando mio padre dice portami in pronto soccorso è perché c'è qualcosa di serio, perché non è uno che si spaventa. Sente che c'è qualcosa quando che non va, ecco. Cioè, lui si è alzato, ha fatto la doccia, si è preparato, mi ha detto tu adesso mi porti in pronto soccorso. Così. Poi ho detto, ma papà, no, guarda, io sento che c'è qualcosa che non va, mi porti in pronto soccorso. Tanto che invece l'ha accompagnato mio fratello in macchina, io intanto ho chiamato mio cognato medico, e gli ho detto guarda che mio padre, tu guarda, se lui dice così è perché deve andare a pronto soccorso, quindi chi più di lui, ok. E quindi mio fratello l'ha portato, mentre lo portava a pronto soccorso, siccome non c'era ancora il blocco, quindi il traffico c'era, era sabato mattina, mio padre addirittura, siccome è iniziato veramente a sentirsi male, ha detto non andiamo quello che era al San Luca, andiamo al San Paolo che è proprio dietro casa nostra, c'è un Zananavigli dietro a Navigli, no? Ma ancora non si parlava di terapia intensiva, no, di tutte queste cose? No, non si parlava niente di Covid, niente, proprio niente. Io sono anche entrata nel bar dell'ospedale, era come tutti i giorni, cioè non c'era niente. Siamo ancora prima del decreto dell'8 marzo però, prima. Sì, sì. E quindi praticamente niente, entra lì, fa l'elettrocardiogramma, alcuni esami, lo tengono dentro un paio di giorni. Io mi ricordo perfettamente che c'era un suo, perché lui non è andato proprio in reparto, l'hanno tenuto in osservazione in cardiologia al Pian Terreno, no? E nello stesso giorno è arrivato un altro signore molto più giovane di mio papà con problemi respiratori, attaccato quindi a una bombola dell'ossigeno, no? E faticava a respirare. Questo te lo dico perché me lo ricordo, ma non è che ai tempi ho detto oddio il Covid, perché per il Covid proprio non si parlava. Ancora non avete fatto uno più uno fa due, no? Assolutamente. No, assolutamente. Sta dentro due giorni, fanno gli esami, quando poi questo dolore al petto, hanno stabilito che non c'erano infarti in corso, non c'era niente di che, praticamente gli hanno detto solamente che andava, gli è andato una tachipirina e questo dolore è andato via. Quindi hanno detto, signor Marina, se è andato via con una tachipirina, cioè se uno ha un infarto o qualcosa al cuore, non è che il dolore del... Però ancora, scusa per capire, a Milano ancora nei primi giorni di marzo, prima del decreto, del non primo si decreto, parlava di Covid. Una persona anziana che va all'ospedale con una difficoltà respiratoria, un dolore al petto, non ipotizzavano che potesse essere Covid, ancora non si diceva. Non si parlava proprio di Covid, niente, non si parlava di niente. Cioè, quindi l'hanno rimandato a casa con l'aspirina. L'hanno rimandato a casa, allenato una tachipirina, e gli hanno detto quando avrà dolore prenda questo antinfiammatorio. Mio cognato poi è andato lì, è andato poi nell'ospedale, ha parlato col medico lì, anche lì non si è menzionato il Covid e niente, ma neanche mio cognato, anche perché mio cognato fa il pediatra e lui non aveva... Cioè, non si parlava di Covid. Quindi com'è andata poi? Cosa è successo dopo? Allora, mio padre è tornato a casa. Però tuo padre, diciamo, nella sua esperienza già aveva capito che era qualcosa, per aver chiesto di andare all'ospedale, aveva capito che c'era qualcosa che andava oltre la norma dei malesseri. Sì, però hanno dovuto tranquillizzarlo, ma poi una volta tranquillizzato, basta, lui è tornato a casa. Quando è tornato a casa, passato l'effetto della tachipirina, ogni volta che passava l'effetto della tachipirina si ripresentava questo dolore, no? Lui sentiva come se qualcuno da dietro lo stringesse, cioè lo abbracciasse in modo un po' troppo forte, questa sensazione, no? Che partiva dalle spalle e poi verso il petto, no? E quindi tornava ogni volta che passava l'effetto della tachipirina. Poi è iniziata la febbriciattola, è iniziato questa febbriciattola fino a che poi è iniziata a diventare 37,5, 38. E quanti giorni erano passati da quando siete andati all'ospedale? 3 o 4 giorni dopo praticamente ho iniziato ad avere queste linee di febbre che poi aumentavano sempre di più di sera. Poi passati i giorni è iniziato ad esserci la febbre anche la mattina e quindi a quel punto ho chiamato ancora mio cognato che chiamava tutti i giorni e ha detto guarda che forse è il caso che qua si vada un'altra volta in ospedale a vedere che cos'è. Perché questo dolore c'è e continua a esserci. E non si parlava ancora di Covid, ancora niente. C'era ancora tutto questo spavento, eh? Non c'era. Tanto è vero che mio padre, lì sì, quando è andato in Humanitas, c'era già il controllo della temperatura. Era già dopo l'8 di marzo, quando mio papà è andato in Humanitas. Là hanno tenuto 3 giorni. Gli hanno rifatto tutti gli esami, tutto quanto, e Pedro l'ha rimandato a casa dicendo che era questa, bisognava mettere a posto questa la pressione, perché era questa pressione che non era più stabile, bisognava cambiare la cura, gliel'hanno cambiata, e tutto a posto, e quindi l'hanno rimandato a casa. Insomma, mio padre ha iniziato a star male con questa febbre ancora a casa, tachipirina, questa pressione, insomma, però niente tosse, poca, cioè una roba, ha iniziato ad avere problemi col respiro, cioè ha iniziato ad avere un po' di affanno. Respirava male? Ha iniziato, mi ricordo quando mangiavamo, a non avere fame e quando mangiava non sentiva i sapori. Ha iniziato a non sentire i sapori. Cioè oggi sappiamo tutti che questi sono i sintomi di Covid, sì, sì, perché se ne è scritto tantissimo, ma allora non immaginavate? No, quando è arrivato all'ospedale di Ro, l'hanno messo subito in isolamento, perché ovviamente in attesa del tampone, perché lì già la cosa si sapeva, l'hanno messo in una stanza da solo. Ed è venuto fuori, intanto i primi tamponi sono venuti fuori, non aveva niente, cioè erano negativi, dopo gliel'hanno rifatti e è venuto fuori che era positivo. Quindi ha avuto la consapevolezza che l'aveva, cosa ha fatto a quel punto? Cosa hanno fatto? Ma lui non è andato in allarme, era solo stufo di fare fuori dentro gli ospedali senza trovare un quale fosse la causa. Ovviamente quando ha capito che aveva il Covid, ok, perché appunto negli ultimi giorni quando lui non stava bene non guardava neanche la televisione, perché andava a letto, perché non si sentiva bene, quindi che però non era normale per un uomo che mi hai detto che era vitale. No, per lui no, infatti. Quindi era in uno stato abbastanza di abbattimento, sì, generale. Sì, sì. E quindi la sua preoccupazione era quella di dire ma come mai a me succede una cosa del genere, la pressione, questo dolore al petto, così. Poi ovviamente quando è entrato, ha fatto il tampone, ovviamente si è capito che lì c'era qualcosa e che probabilmente la causa era quella lì. Alla fine si è capito. Non erano compromessi i polmoni. Allora ovviamente lui è iperteso, in più si è creato un problema al cuore. Vabbè, ho capito, cioè 3 o 4 problemi addosso contemporaneamente. Sì. Ok, quindi il Covid ovviamente quando si è presentato per lui era diventato pericoloso, perché ipertensione e qualcosa al cuore da mettere a posto, il Covid è stata una mazzata. E quindi cosa ha fatto? Allora lì poi è tutto un tratto, perché poi queste cose qua succedono tutte all'improvviso, no? Poi si è scoperto appunto che normalmente una polmonite non è che uno lo deve intubare nel giro di poche ore. Vabbè, quella è una cosa particolare, però era interstiziale, prendeva basso, ha tutto un problema particolare. No, poi hanno scoperto che poi c'era un problema cardiocircolatorio, cioè tutta una, si creavano dei trombi, no? Sì, insomma, che è successo tuo padre? Cosa gli hanno fatto alla fine? Niente, incontro mio padre, a un certo punto, da una stanza dove era in isolamento da solo, l'hanno portato nel reparto che hanno aperto Covid, perché si sono poi presentati un sacco di casi. Quindi è diventato un paziente Covid al 100% a quel punto. E l'hanno messo nel reparto con questi qua. Allora, lì... erano come lui, però, tutta gente che aveva lo stesso suo problema. Allora, io ho sentito mio padre, che è l'ultima telefonata che ha fatto mia sorella, dove ha detto: guarda che mi hanno completamente portato via, bruciato tutta la roba che avevo nella stanza, ho chiesto di venire a prendere il telefono, i miei documenti, quant'altro, e non può entrare perché mi stanno portando in un altro reparto. E mia sorella ovviamente ha detto: ma qua adesso cos'è che sta succedendo? Perché ovviamente non poteva, il telefono gliel'ha tolto, perché non è che poteva stare col telefono al reparto. Quella era l'ultima telefonata che ha fatto prima che gli togliessero il telefono. Sì. Gli ha avvertito: mi porta in un reparto dove non potrò avere il telefono, logicamente. Sì. E quindi noi abbiamo avuto un mio cognato e mia sorella che parlavano, quando riuscivano a parlare, con qualche medico lì in ospedale, ma avevano notizie talmente, che poi molto spesso non rispondevano perché c'era talmente tanto bordello là dentro, che figurati che stavano a dare risposta a parenti e quant'altro. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Melog. Riprendiamo qui la storia di Laura, che, come ho già detto in apertura, ha lo scopo di far riflettere le persone che hanno avuto l'immensa fortuna di avere come ricaduta del Covid-19 soltanto, e questo non significa che voglio minimizzare, ma diciamo la comune necessità di stare per un periodo abbastanza lungo di questi ultimi 2 mesi isolati dalle altre persone e abbastanza condizionati nella loro libertà di uscire, di muoversi, di incontrare altre persone. Per qualcuno, come per la nostra ascoltatrice, questo ha significato ben altro. Per capire la situazione, perché forse è giusto che chi non ha vissuto di persona situazioni del genere capisca, tu a un certo punto hai avuto la certezza che tuo padre era un malato Covid di quelli che si cominciava a vedere in televisione, in quei reparti intubati, via dicendo. Hai avuto da lui un'ultima telefonata e dopodiché ti è scomparso all'orizzonte. Il blackout. E nessuno ti poteva dire nulla di cosa... Poteva essere anche morto, per quello che ne sapevi te. Secondo me sì. Quanto è durato il blackout? Ma io poi continuavo a chiamare mia sorella mi diceva: guarda, sto provando, adesso vado lì davanti all'ospedale, vediamo se con... E poi non mi richiamava, quindi io avevo paura che fosse successo davvero qualcosa. Io, mio figlio per esempio, che messaggia sempre con WhatsApp col nonno, quando ho visto che il nonno non rispondeva più ai messaggi e l'ultimo accesso era giorni prima, e ovviamente mio figlio ha detto: ma nonno, che cosa sta succedendo? Lui sta vivendo in Puglia per un periodo con suo padre, voleva venire. Cioè, il nonno era scomparso per tutta la famiglia, senza che nessuno ne avesse notizie. Non è che sapevamo che era lì, non riuscivamo a parlare con lui perché non aveva il telefono. Però è un membro della famiglia che a un certo punto sono stati tagliati tutti i fili. Normalmente quando uno poi va all'ospedale in situazioni normali c'è un parente che ti ha avverto, ho parlato col medico, ho visto. In una situazione così, ovviamente anche loro, io non do colpa. No, per capire, no, era, anche sai, per loro è stata... non è questa chiacchierata per attribuire delle colpe, è per far capire a chi non ha vissuto in prima persona in una zona particolare, cosa è stato, che non è stata una passeggiata, non è stato un gioco. No. E quanti giorni è durato il blackout con tuo padre? Ma almeno una settimana, almeno. Una settimana che voi non sapete niente di una persona. Questo il gioco forza era così, perché era il momento in cui i reparti erano pieni, arrivava gente, non si capiva bene nemmeno come trattarlo, allora, cosa fosse, se andava per tentativi, e era una situazione niente, drammatica. Allora, mia sorella ha detto: a me non interessa, io adesso vado lì con il mio compagno, il medico, e chiediamo se possiamo portarlo fuori. Figurati fuori. Firmiamo. È riuscito. Nel senso che lui ha detto: io sono medico, ho una casa che mi consente di avere. Ma non stava attaccato alle macchine tuo padre? Non stava intubato? No, dopo no, nel senso che dopo l'hanno staccato. Ah, l'hanno staccato, è passato, diciamo, sì, a una respirazione. Sì, però noi non lo sapevamo, cioè ci hanno detto solamente che era nel reparto intensivo. Terapia intensiva. Quindi dopo quella settimana è uscito la terapia intensiva e tuo cognato, che è medico, se l'è potuto riprendere? No, lui era ancora là dentro e mio cognato ha detto lì, ha detto: comunque sia il suo stato, a me non interessa, mi prendo la responsabilità da medico, firmo e me lo prendo. E me lo porto a casa e me lo curo io a casa, venite pure a controllare se io ho una stanza, una casa idonea per poter curare un malato di Covid anche grave. E lui poi si è comportato. Cioè una stanza isolata, un bagno personale, modo un bagno personale, una stanza isolata, poi una casa molto grande e quant'altro, quindi c'erano tutti gli attrezzi in casa che potevano servire in caso di emergenza, che poteva essere, che ne so, cioè tutti quegli attrezzi che usano questi medici. Beh, insomma, era un medico, si era attrezzato lui. E cosa è successo a quel punto? Allora, mio padre intanto per 2 settimane non ha parlato. Noi pensavamo che avesse perso. Non riusciva a parlare? No, non riusciva più a parlare. Però avete avuto modo di vederlo voi, oppure ancora era isolato? No, allora io e mio fratello no, mia sorella con il medico, delle foto, mio papà, e loro ovviamente stavano in casa con lui, non uscivano. Ma quindi l'hanno concessa questa cosa, se l'è potuto portare a casa? Sì, sì. E sono stati chiusi dentro, ovviamente lui stava chiuso nella stanza, mia sorella ogni volta entrava tutta guardata, come vedi, no? Nei filmati negli ospedali. Sì. E lui non ha parlato per quanto tempo? La maestra si è ritrovata a fare l'infermiera e poi c'era il medico che somministrava le cure. E quanto tempo non ha parlato tuo padre? 2 settimane. Non riusciva proprio a parlare? No, ma non è che non riuscivo a parlare per debolezza, cioè era come in uno stato di shock. Poi mi ha raccontato, E cosa ti ha detto dopo? Ma dopo, quando lui praticamente è venuto fuori, il primo tampone è ancora positivo, però io sono comunque andata a trovarlo stando a una distanza protetta, rischiando ovviamente. Mio papà, che normalmente con me, cioè parla con mia sorella, parla anche con mio fratello, però per ogni figlio ha delle cose diverse, nel senso che con me magari si apre di più su delle cose più, più particolari, diciamo, no? Cioè non so come dirti, io sono riuscita. Vabbè, tu hai un rapporto particolare rispetto a tua sorella. No, so. Ma anche i miei fratelli, però forse io sono quella più, dove magari lui pensa che io sia più forte da poter sentirsi dire delle cose. Quindi con te non c'ha mezzi termini, ti dice la verità, ecco. No. T'ha detto quello che non ha detto a tua sorella, no, per non spaventare. Poi l'ha detto anche a mia sorella, però quando è stata la prima volta che ha detto, perché io mi sono messa, diciamo, abbastanza vicino a lui e gli ho chiesto: ma fa, cosa è successo? E lui continuava a scuotere la testa, no? Cioè a dire no, no, no. E io ho detto: ma fa, cioè, io immagino che tu abbia visto qualcosa che ti ha impressionato, qualcosa. Siccome c'era una sua pochette dove dentro avevamo tenuto il suo telefono, i suoi documenti, no? C'era una sacchetta, insomma, che era proprio di fronte a lui mentre io stavo parlando con lui, no? E lui ha fatto segno verso questa con la mano e mi ha detto: guarda, io quando ho visto che mi hanno portato e messo sulla sedia a rotelle e mi hanno dato quella roba lì, ho capito che mi stavano portando fuori, e ho capito che non sarei morto, perché praticamente lui, quando è stato in terapia intensiva e non poteva comunicare con i medici, perché come faceva? Cioè, i medici non è che... C'aveva i tubi in gola, è un po' difficile. Sì, sì. E quindi praticamente lui ha detto, io continuavo a vedere gente, perché lì la luce è sempre accesa, quindi non è che ci sono luci spente o cose del genere. E io continuavo a vedere anche, perciò, cioè mi voltavo a destra e a sinistra, non c'erano neanche tende che separavano, no? Quindi probabilmente lo vedeva tutto. Vedeva entrare le persone e poi ogni ora, ogni poco tempo lo tiravano sul lenzuolo e li portavano fuori. Quindi ha visto morire tante persone e si è spaventato, lui vuole vedere chiunque. Lui ha detto, io stavo aspettando il mio turno, ho detto qua se stanotte io non la supero. Quindi aveva capito che era in un posto, la gente entrava continuamente e tanta ne entrava, molta ne usciva morta, questo era il fatto. No, ha detto che lui non ne ha visto uscire uno vivo. Ah, sono tutti morti quelli in quel reparto? Che ha visto entrare? Sì, continuava a vedere gente che praticamente era lì e poi... anche giovani, anche persone più giovani di lui, no? Li vedeva morire, lui, insomma. Sì. Quindi lui era lucido, anche se intubato col casco, adesso non so bene quale tipo di profilassi avesse, ma comunque è in un lettino immobilizzato, probabilmente a pancia sotto, come succede, come li non lo so, non su queste ipotesi. Vedeva gente che entrava e usciva, e usciva morta. Quindi per questo non ha parlato, il trauma era questo. Si ricorda, sentiva i nomi e poi niente, diceva il nome, arrivavano queste persone qua e poi magari dopo poche ore lo coprivano e lo portavano fuori. E per lui è stata dura, è stata dura. Quindi ti ha raccontato questa cosa e hai capito? No, la paura di dire qua sto aspettando il mio turno. Cioè, pensa, somiglia tantissimo ai racconti che fanno le persone che sono state, non so, in campi di prigionia, in posti terribili, nei lager, di avere questa sorta di angoscia, di sapere che sta toccando agli altri, tocca tutti, no, intorno, vabbè, a te. Tocchi la morte con le mani. Adesso com'è stato, Pana? Adesso intanto in 3 mesi ha perso 20 kg. Però lui ha detto, era un po' in sovrappeso, quindi meglio così. Cioè sta riprendendo una vita normale, adesso diciamo, è uscito dal Covid almeno. Ma addirittura per reagire, per cercare di... addirittura l'altro giorno mia sorella si è fatta accompagnare nel bar dove andava lui di solito. E quindi vuol dire, ci ho parlato stamattina. Esce, ma lui può uscire adesso, è fuori diciamo. Può uscire, sì, adesso è completamente fuori, non ha fatto i tamponi, ne ha fatti 4 mi pare per confermare che ormai era fuori dal tutto. Anzi, tutto sommato lui dovrebbe avere degli anticorpi più di quanti ne hanno altre persone, sì. Quindi sta più o meno abbastanza tranquillo. Sì, sta attento papà che ti chiedono, ti tirano il sangue per... sai che adesso voglio... Sì, ma quello è una cosa molto particolare, non è che va bene per tutti. No, ma perché... E poi va fatto nei tempi immediati in cui è stato dimesso, ma è passato tanto tempo, è difficile. Poi una persona anziana mi sembra un po' difficile, sinceramente. No, no, però guarda, io ti dico una cosa, tutte le volte mio padre ha fatto qualche intervento, anche il tumore quando l'hanno operato, cioè tutti i medici, possibile signora Alberto che lei ha questa età qua, cioè ma qua, ma anche la ripresa dopo, cioè lui è stato operato un polmone, no? Vabbè, un metabolismo attivo, funzionante, giovanile. Cioè, aveva una ripresa che era esattamente come uno di 50 anni. Beh, meglio così per lui. Infatti si è salvato. No, ma infatti tu dicevi, guardi, ma lei è uno da studiare. Melog. Concludiamo in questa fase il racconto della nostra ascoltatrice. Potevamo scegliere storie a esito drammatico. Potevamo trovare argomenti che avrebbero facilmente toccato in maniera feroce la sensibilità di chi ci ascolta. Abbiamo scelto una storia banalmente normale, per farvi capire, quanto anche la normalità, perlomeno nei posti dove il coronavirus si è avvertito come qualcosa con cui bisognasse coabitare con grande paura e grande apprezzione, questo ha significato un passaggio fondamentale nella propria vita, un passaggio che veramente cambierà le cose, che non saranno mai più come prima, ma non secondo il luogo comune, non secondo le canzoni dei balconi, non secondo quello che ci si dice, si scrive nei social, ma secondo una realtà che ci tocca concretamente nella nostra carne e nei nostri affetti. Cioè Luca, forse questa è un'idiozia che penso io, dimmelo pure, ma io credo che intanto la gente pensa che le persone anziane, solo perché sono anziane, sono delle persone deboli. Sono da buttare, questo è il fatto, sì sì. Sono deboli, ma non è che tutte le persone anziane sono deboli, eh? Anche perché bisogna anche ricordarsi che queste persone hanno vissuto dei periodi pazzeschi, cioè hanno capito il sacrificio. Di che anno è tuo padre? Che anno è nato? 31. 31, capisci? Ha visto pure la guerra. Certo, si è visto anche un pezzo di guerra che, diciamo, era già bambino in grado di capire, non era proprio un gioco. Ha sentito i bombardamenti, cioè, quindi voglio dire... Gli è passata una fetta di storia addosso, chiaro. Ha visto tutta la rinascita, visto, tutti gli anni, certo, terribili. Certo, è venuto qua dalla Puglia, è venuto qua a Milano, quando i terroni erano visti come oggi quelli che non sopportano. Quindi lui è salito con i treni del sole degli immigrati al tempo in cui... Sì. No, lui ha finito il militare, che allora durava 2 anni, e l'hanno mandato dalla Puglia, l'hanno mandato in Friuli. Le caserme al confine, le caserme più diciamo più importanti in quel periodo, quelle che salvaguardavano il confine con il blocco dell'est, quindi il confine, sì, con la Jugoslavia. Sì, in Friuli mi pare, sì. Spilimbergo, quei posti lì erano pieni di caserme. No, insomma, e ha detto che già lì, a parte che già da piccolo, lui è arrivato alla quinta elementare, da allora non si andava oltre la quinta elementare. E poi si andava a lavorare e lui lavorava e cucinava mio nonno, che aveva praticamente, come si chiamano quelli che curano le tenute degli altri, faceva il fattore. Bravo. E quindi si portava mio papà non a fare i lavori pesanti, però lui era quello che si occupava di preparare il pranzo e la cena sul fuoco, nel camino. Vabbè, quindi ha avuto a 11 anni. E tua madre dove l'ha conosciuta? A Milano? Mia mamma l'ha conosciuta che erano piccoli a scuola. Ah, quindi si è portato la moglie dei paesi suoi, praticamente? Sì, si sono conosciuti da piccolini e poi si sono amati per una vita intera. E tua mamma non c'è più? No, è venuta a mancare, anche lei è una donna molto forte, molto attiva, però purtroppo un tumore al fegato. Ah, cioè, me l'avevi raccontato che tuo padre sembrava che si abbattesse, invece no, è riuscito a tirarsi su anche da questa cosa. Adesso tuo padre cosa dice in questo momento? Come vede questa situazione intermedia in cui ancora bisogna stare attenti? Qualcuno pensa che era tutto uno scherzo, altri pensano che si è esagerato, ecco. Mio cognato e mia sorella e anch'io dicevo, ma papà, ma smetti, non stare a guardare troppo queste informazioni, il TV, guardati dei film, distraiti, no? Però ovviamente mio padre è curioso com'è, perché è sempre stato curioso nella vita, no? E questa è stata la sua arma vincente anche un po' nel lavoro, nel riuscire a fare, ad affermarsi qua a Milano, nonostante fosse un meridionale, perché era una persona intraprendente, non so come dire, aveva tante qualità, quindi ovviamente è uno che legge, si informa, guarda, sente, ascolta la radio la mattina, guarda i telegiornali, è una persona che si informa, quindi ovviamente dire a mio padre tu non guardare però quei programmi lì, sia la radio sia in televisione, lui li vuole guardare, e quindi lui si è reso conto di che cosa ha rischiato quando poi ha visto il più tributo, quello che era successo, ha avuto conferma che lui era proprio entrato nel girone dell'inferno e c'era uscito. E questo lo dice ancora, sì? Lo dice tutte le volte che vado a trovare, sempre. Poi, guarda, mio papà l'ho visto piangere 3 volte nella vita. Quando è morta sua mamma e suo papà. Quando è morta mia mamma, invece, il problema è stato che lui non riusciva a piangere, quindi si è tenuto tutto dentro. È stato un po' più, quindi diciamo che ha pianto tempo dopo, però è una persona che fa fatica a piangere. Vabbè, sono persone di un'altra generazione. Se tu tratti una persona anziana come una persona anziana e basta, restano giovani. Te lo giuro, io l'ho visto con mio papà. Io credo che il fatto di aver trattato sempre mio padre in questa maniera, cioè da persona anziana e non da vecchio rincoglionito, secondo me l'ha fatto restare giovane, diciamo, di testa, di spirito. E secondo me anche questo lo ha aiutato a reagire contro questo demonio che gli era arrivato di fronte. Cioè ha tenuto duro, perché ci sono state anche persone anziane che si sono lasciate andare, perché guarda che anche l'aspetto psicologico incide molto. Quindi lui ha detto: io lo so che non è che sarei peggiorato dopo 2 ore, ma io mi sarei lasciato morire quella notte. Vabbè, sai, uno che ha passato varie vicende e ha visto comunque dei cambi fondamentali nel mondo attorno a lui, come un bambino che ha visto la guerra, poi ha visto la rinascita, poi ha visto il paese evolversi e avere tutti i problemi che ha. È passato comunque probabilmente nel ricordo orale della spagnola dei suoi genitori, le varie asiatiche, tutte le altre pandemie che sono passate. Gli capita di passare anche per questa, entra in una stanza, vede gente che entra e esce morta, entra e esce morta, un po' evidentemente qualcosa doveva avere di suo, di rafforzato, per essere ancora lucido e poter riprendere la vita, questo è chiaro, non si è lasciato andare, forse anche merito probabilmente di voi figli che non avete mai fatto sentire ormai in secondo piano, avete sempre dato il rispetto e la riconoscibilità della sua autorevolezza di padre. Questo vorrei insegnarci qualcosa. Sai, perché c'è un momento in cui i padri diventano figli dei loro figli. È anche no, bello questo. Noi siamo ancora in una fase dove noi siamo i suoi figli. Questo, perché a un certo punto quando cominci a occuparti dei genitori come se fossero bambini, è un atto di pietà, ma non li consideri più esseri umani capaci di determinarsi, di difendersi. Non siamo in quella fase lì, non siamo. Lui ha ancora tanto a insegnare a noi, anzi con questa cosa qua ancora di più. Questa è una bella lezione, una grande lezione, evidentemente sì. Ha degli strumenti potenti. Devo almeno dare un po' di speranza anche a persone che hanno parenti anziani col Covid, non tutti muoiono, non tutti muoiono. Sì, poi non è manco detto che debbano per forza morire degli anziani, perché se non ci fosse il Covid, con la pasticchina quotidiana potranno fare delle vite fantastiche, meravigliose, lo stesso come dicevi te prima. Non è che tanto dovevano morire, tanto sono anziani, tanto di qualcosa bisogna morire, che è una delle cose più stupide che si sente dire. Mamma capito? Mia, di qualcosa bisogna morire, ma che vuol dire? Dipende quando, qualcosa siamo d'accordo, ma dipende quando. Va bene, io intanto ti ringrazio, ti saluto. No, ringrazio io te. Ciao, buona giornata, presto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.